Euroreportage. Ambiente in tempo di crisi. La scommessa europea di Laura Bettini. È alla sua ultima Green Week da commissario Janez Patočnik. Ha il solito tono pacato, ma un po' più dimesso, meno agguerrito degli altri anni. Forse è stanco, o forse sta sinceramente e pubblicamente facendo un bilancio del suo mandato. Non è stato facile essere commissario all'ambiente in tempi di crisi. Per essere ascoltato, ho cercato di parlare una lingua che i miei colleghi potessero capire. La mia idea è sempre stata che l'ambiente non sia un argomento da trattare a pagina 10 dei giornali con storie locali o di conservazione, ma anche a pagina 1 e 2, dove si parla della crisi e delle possibilità di uscirne, che sono le grandi domande dei nostri giorni. Ecco perché parliamo qui di efficienza delle risorse e di circolarità dell'economia, perché sono temi vitali, perché è una lingua che parlano anche i ministri delle finanze e dell'economia. Stiamo mandando loro un messaggio. Guardate che proteggendo l'ambiente potete rilanciare la crescita e creare lavoro. Avrà ancora molto da fare Patočnik dopo la Green Week. Per la nomina di un nuovo commissario all'ambiente c'è ancora tempo, ma certo questo è l'ultimo grande evento della direzione ambiente sotto la sua guida. L'economia circolare, efficienza delle risorse e rifiuti. È il tema del 2014 e di che si tratta lo spiega bene lo stesso Patočnik. Producing, consuming, throwing away and then digging deeper. Produrre, consumare e buttare via, e poi scavare più in profondità per produrre di nuovo, consumare e buttare via. Questa è l'economia lineare. E invece se fai in modo che scavi una volta, produci, consumi e poi riusi o ricicli, allora la materia prima non viene persa e in questo modo si chiude il cerchio. E ce lo insegna la natura, che è il più grande sistema circolare nato da milioni di anni di esperienza, un sistema in cui nulla si perde, in cui tutto ha un senso. E poiché noi apparteniamo alla natura, sarebbe opportuno che imparassimo a comportarci di conseguenza. It would be good that we would behave in the same way. La presenza italiana alla Green Week 2014 non si può certo definire massiccia. Qualche anno fa c'erano molti più connazionali tra i relatori, gli espositori e i visitatori. Ma qualche posticino al sole l'abbiamo comunque conquistato. Uno è quello occupato dal team romano premiato nell'ambito di Generation Awake, la campagna della Commissione per la sensibilizzazione dei giovani sui temi dell'efficienza delle risorse. Alla Green Week sono stati premiati i partecipanti al concorso per designers, artisti o artigiani verdi di 4 paesi, Italia, Francia, Bulgaria e Lituania. Non sono stati scelti questi 4 paesi per motivi particolari, ci spiegano. È che la ruota gira. Questo concorso è arrivato a noi, altri saranno solo per altri paesi. I vincitori italiani sono i ragazzi del laboratorio Linfa, un gruppo capitanato da Luigi Cuppone, designer, ricercatore e professore all'ISIA di Roma, l'Istituto Superiore per le Industrie Artistiche. La premiazione è stata della collezione, quindi la collezione che noi realizziamo è fatta in legno riutilizzato. In questo caso abbiamo esposto alla Green Week Vassili, che è un progetto di Stefano Di Primio, Stefano Grazioli e Francesco Di Pietro. Loro insieme al team di Linfa hanno realizzato questa doppia seduta molto particolare che permette di avere un colloquio fra due persone, di avere un piano a supporto di un computer, di un giornale, anche di una per giocare una partita a carte con una lampada superiore, e diciamo che si adatta perfettamente a essere utilizzato per un luogo pubblico, quindi o un luogo all'aperto o una biblioteca, una libreria. Il bello del legno utilizzato è che, appunto, avendo questa matrice usata, esalta quello che è il valore di un legno che andrebbe in discarica, ma che invece in realtà può essere tranquillamente riutilizzato perché mantiene perfettamente tutte le sue proprietà tecnologiche e fisiche, quindi è un materiale che viene recuperato prima di diventare in downcycling, quindi in un ciclo che dà un valore inferiore a quel legno. Quindi tutti i truciolari che noi ci ritroviamo in giro, diciamo confezionati con della plastica, in realtà nascondono un legno che è stato sottociclato in downcycling. Invece questa in upcycling, proprio perché il valore di quel materiale dà è superiore a quello che aveva prima. Quindi se prima questo era un pallet, per esempio, che ha girato il mondo, si è riempito di cemento, di ferro, tutto quanto, a un certo punto andrebbe in discarica perché ha finito, ha ultimato il suo ciclo d'uso. E invece noi lo recuperiamo attraverso un lavoro manuale, che è un lavoro sicuramente artigianale. E non solo il materiale con cui sono realizzati gli oggetti è di recupero in upcycling, come ci ha spiegato Cuppone, ma anche le sostanze e gli strumenti per rifinire gli oggetti sono naturali e di recupero. Per levigare si usano le palline di posidonia, le alghe delle nostre spiagge, per lucidare cera mista a olio di lino e terpene d'arancia. In bella mostra nella sala degli espositori c'è un altro progetto italiano, diventato realtà grazie al contributo del programma europeo LIFE. È il TIRSAV Plus, un sistema per il recupero degli scarti di lavorazione dei frantoi realizzato nel comune di Laurino, in provincia di Salerno, nel Parco Nazionale del Cilento. Antonio Feola è il project manager. L'innovazione sta nel fatto che noi recuperiamo tutti i reflui, tutti gli scarti di lavorazione, la sansa, l'acqua di vegetazione, i residui della potatura, le foglie di lavaggio del frantoio, li mettiamo insieme ad altri materiali per poi attivare un processo di compostaggio vero e proprio, insomma, e quindi si arriva ad un prodotto finale che è un ammendante organico utile all'agricoltura, praticamente un prodotto che serve a migliorare la fertilità dei suoli agrari. Il processo è abbastanza semplice, nel senso che noi abbiamo l'attività di recupero di queste matrici organiche così importanti in agricoltura, è stata centralizzata praticamente. I frantoi dell'area conferiscono il proprio scarto presso il nostro impianto e noi lo lavoriamo secondo un processo che abbiamo anche brevettato noi, che abbiamo messo in piedi noi, abbiamo brevettato noi. Abbiamo fatto un impianto pilota, ma ha anche una dimensione produttiva importante, perché ad oggi è autorizzato per lavorare 2600 tonnellate anno, però può arrivare a lavorare anche 12.000 tonnellate anno di reflui oleari in ingresso all'impianto. Don't be afraid of the wicked. Al tavolo dei relatori invece siedono gli organizzatori di Let's Clean Up Europe, una iniziativa di pulizia straordinaria del territorio europeo che si è svolta il 10 maggio. È stata organizzata nell'ambito della Settimana Europea per la riduzione dei rifiuti ed ha mobilitato migliaia di volontari in tutto il continente. Il coordinamento è stato di AICA, Associazione Internazionale per la Comunicazione Ambientale, il cui presidente è l'italiano Roberto Cavallo. Abbiamo presentato la metodologia, che è tutt'altro che banale, perché non è una cosa nuova. Oggi con William Neal del gabinetto di Potocnik, cioè del commissario, ricordavamo come in realtà in Europa già tantissime ONG o autorità locali facevano delle iniziative similari. Non esisteva un coordinamento europeo di tutte queste iniziative, e questa è già una grande soddisfazione di questo che viene sempre più definito multi-stakeholder involvement, cioè questo coinvolgimento di portatori di interesse diversi tra di loro, con diversi interessi che invece convergono verso una cosa comune. Cioè, in questo caso era puliamo l'Europa, let's clean up Europe. Dal punto di vista così delle conclusioni di questo primo anno, sapendo che con il commissario abbiamo già messo in campo 4 anni di attività, questo era il primo e finiremo, diciamo che l'ultima programmata sarà il 2017. Le prime conclusioni sono state questo importante coinvolgimento di tanti portatori di interesse, il coinvolgimento dei privati, e devo dire l'Italia su questo ha fatto anche un po' da pilota e da strada, nel senso che abbiamo un coinvolgimento delle aziende che gestiscono l'igiene urbana, sia quelle private che pubbliche, quindi Federambiente, Fise e Assoambiente, ma anche dei privati che ci garantiscono l'avvio al riciclo di ciò che raccogliamo. Questo l'abbiamo sottolineato oggi, cioè va bene pulire, ma se riusciamo a pulire anche in modo differenziato vuol dire anche recuperare ciò che